che il mondo è cambiato, tutto si fa sincopato, e il vecchio valzer lo stesso, più col progresso non va. Voglio insegnarti, bambina, stretta al mio cuore in sordina, un motivetto un po' strano che pian piano ti dirà. Se vuoi nel valzer l'effetto provare, col boogie boogie lo devi intrecciare, dicendo a me, dicendo a te, cadre a tutta tutto te. Guarda l'orchestra che scherzi ti fa, anche il maestro più fermo non sta, cantando a te, cantando a me, cadre a tutta tutto te. Odor che vienna con mio odor dei tempi cari al cuore, nel valzer resti sempre tu, col tuo Danubio blu. Ma gira gira la gente oggi di, col boogie boogie vuol divertirsi, dicendo a te, dicendo a me, cadre a tutto te. Dicendo a te, dicendo a me, cadre a tutta tutto te.